Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Frey. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Van Loon, il vostro programma di storia a cura del Caso S. Oggi già siamo alla seconda puntata di questa nuova stagione di programmazione, ma visto che la puntata è intensa, entriamo subito nella tematica di questa seconda puntata, che sarà di presentazione di un libro molto interessante, appunto, come ho già detto, intenso. Entreremo di nuovo in quel mondo complesso che è la storia della guerra di liberazione italiana e in particolare di quella tragica pagina che è stata l'occupazione nazista, e parleremo nel particolare della strategia che i nazisti avevano messo in pratica per combattere la resistenza partigiana. Come la mettono in pratica? Uccisioni di prigionieri, partigiani inermi, ma anche forse soprattutto uccisioni di civili, come una via per sgomberare il campo da possibili resistenze nel corso dell'arretramento delle linee del fronte, prima nella linea Gustav e poi sulla linea Gotica. In questa puntata, insomma, presentiamo il volume Zone di guerra e geografie di sangue, che riporta sotto forma di libro edito dal Mulino all'inizio del 2017 il cosiddetto Atlante delle stragi nazifasciste in Italia, che è da anni presente nella sua versione di mappa interattiva sul web. Il sito, questa mappa interattiva e il libro sono curati da Gianluca Fulvetti e Paolo Pezzino, che si sono avvalsi della collaborazione di decine di storici e ricercatori che sono sparsi su tutta la penisola. Per raccontarci un po' meglio questo libro, Zone di guerra e geografie di sangue, abbiamo invitato Toni Rovatti, storica dell'Università di Bologna, che da anni lavora sulla questione della repressione della resistenza, dei partigiani e della storia della RSI, e nel volume in particolare ha curato un saggio dal titolo La violenza dei fascisti repubblicani fra collaborazionismo e guerra civile. Ora, prima di entrare veramente in puntata e di intervistare Toni Rovatti, ci sentiamo un pezzo che si intitola Marmo Rosso Sangue dei Fats Orchestra dall'album Comunicato numero 2. E le minacce che fanno gli operai giorno per giorno nelle ditte, io lavoro là con la Marmo Porto, e lì quando uno esprime un'idea politica che non va genio a questi padroni, a questi agenti, e lì sono minacciati giorno per giorno. Ma perché qua, come il padrone, non potremmo poi arrivare a contatto con lui, lui si pregherà sempre, quindi per risolvere il problema io penso che venga ora di dire, proprio anche col fucile della giubbotta, mi ha scrutato fino adesso mi ridai tutto il tempo, a me e al mio padre non ho. Perché qua siamo stufi, io tutte le notti, tutte le sere sogno che succeda la mattina qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione. In una catena di montaggio dove l'operaio ci va a prendere per il We'll be right back. Bene, ben trovata allora a Toni Rovatti, benvenuta su Vallun. Allora, partiamo subito da una domanda di introduzione sul libro e sul percorso che lo ha visto nascere. Ricordiamo, come abbiamo detto in introduzione, che il libro nasce ha un percorso alle spalle, un percorso molto lungo nel tempo, che ha visto fra le altre cose anche una collaborazione fra istituti culturali e, diciamo, istituzioni italiane e tedesca allo stesso tempo, che punta a una mappatura del fenomeno dello stragismo nazifascista in Italia. Toni, potresti raccontarci qual è il percorso che ha portato alla pubblicazione di Zone di guerra e geografie di sangue e in che maniera ha contribuito la politica della memoria italiana e tedesca? Certo, intanto buonasera a tutti. Il libro... Sì? Sì, sì, ci senti? Scusa, ok. Buonasera a tutti, intanto il libro nasce collegato con un sito internet da cui è possibile accedere ai risultati della ricerca e a un database che ha raccolto oltre 5.000 episodi di stragi naziste e fasciste. Ed è un progetto che vede, come dire, la compartecipazione come promotori da una parte dell'attuale Istituto Nazionale Parri, ossia il nazionale della rete degli istituti della resistenza in Italia, e contemporaneamente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. La volontà di portare a termine questo progetto, che ha visto un comitato scientifico coordinato da Paolo Pezzino e con la presenza di illustri storici anche che sono occupati, come dire, della violenza tedesca, come Carlo Gentile, Luca Valsara, ma anche Gabriella Gribaudi rispetto al Sud, ha visto all'opera oltre 120 ricercatori territoriali. E si è sviluppato nell'arco di 2 anni, dal dicembre del 2013 ai primi mesi del 2016. È stato ufficialmente presentato il progetto, i risultati del progetto della banca dati alla Farnesina il 6 aprile del 2016. Alla Farnesina perché? Perché il progetto in realtà è un progetto che vede il finanziamento della Repubblica Federale Tedesca e del suo Ministero degli Esteri con questo Fondo per il Futuro, che nasce da una lunga sviluppo di una dimensione sia processuale che diplomatica. Nel 2012 si concludevano i lavori di una commissione italo-tedesca di storici che nelle conclusioni del loro lavoro sull'esperienza di guerra vista sia dal punto di vista tedesco che dal punto di vista italiano, e quindi della campagna d'Italia tra il 43 e il 45, ci indicavano tra le linee di lavoro anche la costituzione di questa banca dati e di questo tentativo di fare il punto dal punto di vista storico sulle stragi naziste e fasciste in Italia, ma anche sulla loro memoria e sugli sguardi incrociati tra Italia e Germania. In realtà la commissione italo-tedesca a sua volta è frutto di un accordo diplomatico dopo una sentenza dell'AIA del 2012 che invece rifiutava i risarcimenti alle vittime delle stragi naziste che erano stati valutati dai processi fatti in Italia dai tribunali militari a partire dall'inizio degli anni 2000 fino al 2013-2014. Questa scelta internazionale, in qualche modo, di non poter chiamare in giudizio la Germania per dei risarcimenti economici diretti ha portato a una soluzione diplomatica di volontà di risarcire perlomeno in termini di memoria, di riconoscimento istituzionale e di ricerca storica. Su questo si sono anche approfondite molte polemiche, ma indubbiamente l'Atlante delle stragi naziste e fasciste ha anche colmato un vuoto di conoscenza storica molto importante, ed ha avuto anche un feedback da parte, come dire, dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime anche positivo, che nulla toglie alla però ingiustizia di non avere un risarcimento economico diretto. Il libro è interessante, importante e anche abbastanza pesante dal punto di vista di quello che ci dice, di quello che ci racconta. Se dovessimo fare un piccolo riassunto per gli ascoltatori e per le ascoltatrici, possiamo chiederti che cos'è stata la strategia delle stragi che viene messa in campo in questo biennio 43-45 e soprattutto come si è strutturata e che obiettivi aveva? Sì, allora devo fare due piccole precisazioni inizialmente, nel senso che il libro guarda a una dimensione nazionale per la prima volta e quindi tenendo dentro dalla Campania al Friuli Venezia Giulia e al Trentino Alto Adige, quindi sia le regioni, come dire, meridionali coinvolte, come dire, dalla prima violenza nazista sulla linea Gustav, quindi siamo ancora nel settembre del 43, nell'autunno del 43, fino invece alle regioni più a nord che vedono un'occupazione, un controllo diretto da parte dell'occupante tedesco, come nelle due zone d'operazione del litorale adriatico e delle Prealpi. L'interesse di ricerca di questo libro e il tipo di sguardo complessivo che riesce a dare è intanto uno sguardo mosso, che riesce a seguire, come dire, le varie evoluzioni del fronte dal settembre appunto del 43 fino al maggio del 45, arrivando anche a definire, a guardare le stragi dell'ultima ora e la violenza proprio del momento finale della guerra, e riuscendo a modulare bene tra territori e tempi della violenza nazista e fascista. Per quanto riguarda la strategia del massacro, già delle ricerche precedenti a livello storico avevano enucleato una serie di ordini della primavera del 44, in cui nella dimensione proprio di occupazione del territorio italiano da parte tedesca c'era una esplicita strategia di spostamento della violenza al fine di bonificare i territori dalla presenza della guerriglia partigiana in direzione, come dire, di spostare la violenza in direzione degli inermi. Alcuni ordini di Kesselring, in particolare quelli del 17 giugno del 44, facevano riferimento diretto al coinvolgimento di donne e bambini e di anziani all'interno di questa strategia di controllo del territorio e di una violenza terroristica che era anche funzionale a rompere i legami di solidarietà tra movimento partigiano e popolazione civile. E diciamo che abbiamo una stagione storiografica a cavallo del 2000 che fa proprio focalizza questa categoria della guerra ai civili. Questa ricerca, la ricerca attuale uscita appunto i primi mesi di quest'anno nel libro Zone di guerra, fa un passo in avanti, nel senso che oltre a guardare ai civili e agli inermi come appunto le donne, i bambini e gli anziani, guarda anche alla posizione dei combattenti partigiani presi, catturati, resi inermi e quindi poi uccisi in stato, come dire, di impossibilità di difendersi. Quindi non guarda alle morti partigiane negli scontri armati, ma in questo stato, come dire, di impossibilità di difesa, mostrando come ci siano delle traiettorie e delle logiche di violenza che si incrociano, soprattutto si incrociano nella collaborazione tra reparti armati tedeschi e reparti armati invece della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, infatti, guarda Tony, volevo chiederti proprio, farti una domanda su questa specifica, che è anche che è l'argomento che hai affrontato anche nel tuo contributo all'interno del volume, di cui ricordiamo il titolo, La violenza dei fascisti repubblicani fra collaborazionismo e guerra civile. Non sempre si parla del ruolo dei fascisti, per l'appunto, all'interno di queste stragi, e quindi, ecco, magari se ci potevi raccontare qualcosa di più del ruolo giocato dai militari, dai militi e dai fascisti all'interno delle stragi e soprattutto capire anche come lo inquadriamo questo in un'ottica di guerra civile, per l'appunto, come tu hai citato. E in più magari volevo chiederti se il nostro territorio, l'Emilia Romagna, ha conosciuto delle specifiche anche in questo senso. Sì, allora appunto la specificità di questa ultima fase di ricerca, anche così ampia a livello territoriale, ha permesso alcuni affondi territoriali che prima non erano possibili, facendo emergere a livello generale un contributo indubbiamente minoritario rispetto, come dire, alla violenza tedesca, ma di un certo rilievo della violenza fascista. Da una parte dei reparti proprio strutturati dell'RSI, diversi reparti con compiti di ordine pubblico e antipartigiani che sono operativi sotto la Repubblica Sociale Italiana, ma anche invece un ruolo, diciamo, di singoli, se possiamo dire, o comunque di un sottobosco di amministrazione fascista e di politici o di aderenti all'RSI che fungono, hanno un ruolo di guide o di delatori o comunque di collaboratori sul territorio. Se nelle grandi stragi che immediatamente ci tornano alla memoria, per cui le più famose sono Sant'Anna di Stazzema e ovviamente Montesole, il ruolo fascista è un ruolo di di collaborazionismo operativo. Ci sono vere e proprie stragi in cui c'è invece un protagonismo come esecutori, possiamo in forme diverse, anche con, come dire, reparti armati che magari possono avere anche una genesi di diretto collaborazionismo con l'occupante, anche al di fuori da una mediazione con gli organi di potere dell'RSI. E una strage di questo tipo, per esempio composta e eseguita da italiani, è per esempio la strage di Tavolici nel Forlivese del 21 luglio 44, sempre per rimanere su strage di grande portata. Diciamo che la caratteristica dell'Emilia Romagna è la caratteristica di una di stragi, a parte quella di Montesole, la grande azione di Montesole e la dimensione, come dire, di confronto con questa politica del massacro sulla linea gotica in un territorio strategico, in un momento strategico come quello dell'estate del 44, misura e caratteristica della violenza in Emilia-Romagna mostra un intreccio molto più forte che in altri territori tra questa dimensione di guerra internazionale e quindi con una logica da occupante dei tedeschi e di controllo del territorio, e una logica invece dell'RSI che è molto diversa, che si muove e che ha con obiettivi diversi a seconda dei periodi, anche questa con una certa parabola. Diciamo che se nella prima fase la violenza repubblicana ha un'attenzione in particolare anche agli antifascisti, quindi guardando, come dire, a un confronto politico di lungo periodo, la dimensione della guerra civile e del contrasto sul territorio, quindi anche sul luogo e sul paese, sulla dimensione urbana, di un confronto territoriale con il nemico italiano, e quindi in una dimensione di scontro diretto e di guerra civile, diventa quello più forte, con una grandissima dimensione anche di contiguità con il nemico e anche di particolare recrudescenza delle forme di violenza messe in mostra. Diciamo che l'Emilia Romagna è la dimensione soprattutto della pianura che mostra questo radicamento della violenza anche in forme di stragi minori, ma che vanno a colpire in maniera molto selettiva e con una violenza che è apertamente politica, che colpisce la militanza politica, mentre possiamo dire che la violenza tedesca con delle strategie militari ha una arbitrarietà anche nell'individuazione delle vittime molto maggiore. Ok, noi veramente saremo per ore e giorni a parlare di questa storia poco raccontata a volte, perché ci interessa ed è interessante e sia come storici, sia come ascoltatori e sia come radio parlare di questo. Purtroppo però i tempi radiofonici sono stringenti e ti chiedo, ti faccio l'ultima domanda. Quali sono, secondo te, le conclusioni generali che questo libro traccia per questo periodo che abbiamo appena descritto e se ci sono e quali sono i miti, tra virgolette, che il libro ha sfatato, cerca di sfatare in un'ottica di memoria nazionale o memoria collettiva rispetto a questo periodo? Sì, diciamo che il libro e la ricerca che è alla base, da una parte ridimensiona la logica della guerra contro gli innocenti e contro i civili soltanto, e di una dimensione di violenza soprattutto nazista in questa direzione, mostrando come la presenza dei partigiani inermi è una presenza importante. Da questo punto di vista, soprattutto la figura delle vittime e della tipologia di vittime che vengono colpite da questa violenza dimostra come siano soprattutto in maniera prioritaria i giovani, cioè gli uomini in età di leva, quelli colpiti dalla violenza di guerra dopo un lavoro così sistematico e territoriale, senza nulla togliere all'impatto e alla violenza delle stragi eliminazioniste più famose e più, come dire, che più hanno suscitato e colpito, come dire, anche l'immaginario. Certamente dimostra come ci sia una stillicidio di piccole azioni di guerra nella quali la presenza e il ruolo dei fascisti e dell'RSI è molto maggiore di quanto la nostra memoria abbia mantenuto. Questo è legato anche a diversi percorsi dal punto di vista giudiziario. Se per quanto riguarda la violenza nazista, l'ultima stagione di processi dei tribunali militari ha rimesso in luce, come dire, la strategia del massacro, per quanto riguarda la Repubblica Sociale e il collaborazionismo, quindi il reato di collaborazionismo, l'esperienza giudiziaria così controversa dell'immediato dopoguerra delle corti d'assise straordinarie, in una fase di transizione anche di fortissimo ancora abitudine alla violenza agita e anche alla vendetta, diciamo, dell'immediato dopoguerra, lascia uno strascico, forse anche con un'amnistia vissuta anche come un bisogno di dimenticare, di qualcosa di non coerente, di non costruito. Invece, visto nella sua interezza, la violenza fascista ha le sue logiche, ha delle logiche che sono di supporto dell'occupante, ma anche delle logiche invece interne e personali che lasciano una scia di memoria che si riflette anche nel dopoguerra, quindi ci può spiegare anche la violenza del 45-46. Forse la violenza fascista ha un peso maggiore rispetto a quello che noi ricordiamo, no? Ha un peso maggiore storico. In termini, sì, proprio anche numerici, sì. Nel senso che è piuttosto impressionante questo dato, ma guardando, come dire, interrogando la banca dati e questi oltre 5.000 episodi di stragi o uccisioni singole, la presenza fascista in funzione collaborazionista o come esecutori protagonisti è in un terzo delle stragi. È tanto, nel senso che l'immagine che normalmente abbiamo è di una dimensione italiana che si autorappresenta sempre come vittima della violenza e non come esecutrice. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace fra il mio letto. Figlia di quel ragazzo che nessuno ha visto più, passato 20 anni fa e non tornato ancora. divertì con sua madre, e come sapeva fare, lasciandola addormentata a sorridere, a sognare. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Silenziosa come la neve, bianca come la luna, la pelle di sua madre, gli occhi di suo papà. Un uomo che non ha conosciuto, sul quale fantasticare, un capitano, un pilota, l'avrebbe voluto incontrare. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Compiuti 14 anni, un uomo arrivò dalla strada, l'ha presa in mezzo all'erba, a qualche metro dal mare. Prima un po' di paura, poi un fremito e si lascia andare, con un uomo senza nome che le insegnò a baciare. Come è arrivato partì senza mai più tornare, lei lo aspettò dritta in piedi fra la strada e il mare. Si disperava perché aveva sempre fame dei baci che non trovava più e che erano come il pane. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Di storie come questa ne ho da raccontare, che questa notte nera faremo passare. E passerà la guerra, e passerà la fame, e il deserto di ragioni che ci hanno dato da attraversare. Di storie come questa ne ho da raccontare, se mi vuoi ascoltare, se mi vuoi ascoltare. Aveva sempre fame dei baci che non trovava più e che erano come il pane. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza pace un fulmineo letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto, ai corpi senza bene, pace. Allora, grazie ancora a Tony Rovatti, una delle storiche che hanno partecipato al volume Zone di guerra, geografie di sangue, edito dal Mulino del 2017, che ci ha per l'appunto raccontato il libro, e noi siamo arrivati in chiusura della puntata. Vi segnaliamo un evento che andrebbe molto bene per la nostra speciale rubrica You Say You Wanna Revolution sul 2017 delle rivoluzioni, che è un reading sul fiume 2017 a tema per l'appunto Revolution, che si terrà il domenica 15 ottobre dalle parti di Borgo Panigale. Se andate, è un'iniziativa organizzata dal Teatro dei Mignoli, in cui ci saranno corti teatrali site specific, quindi proprio svolti, organizzati lungo il fiume Reno, a tematica rivoluzione. Magari ci vedremo lì. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo già finito per oggi. Ciao Frey. Ciao Olga, buon pomeriggio a tutte e tutti e alla prossima puntata. Ciao.